Ormai mi avete sentito dirlo tante volte, ma un insegnante ripete le cose già insegnate più volte, che c'è differenza tra religione e fede, un po' come c'è differenza tra mettere in piedi una famiglia e amarsi. La religione, se vogliamo, è l'insieme degli usi, dei costumi, dei riti. La fede è incontrare Gesù, come nell'amore e come nel fare una famiglia. Prima ci deve essere l'amore, se no povera famiglia. Ora io mi chiedo e vi chiedo, noi siamo convinti tutti che abbiamo incontrato Gesù? Io ritengo che la prova ci deve essere quando leggiamo il Vangelo. Peccato che ve lo spiego sempre io il Vangelo. L'esame di coscienza lo faccio per me, perché quello che vi dico prima lo medito io, ma vi ho già detto un'altra volta, qualche volta mi piacerebbe non spiegarvi più io il Vangelo, ma mettermi a dire nelle vostre case oppure anche qui in chiesa, coraggio, ditemi voi che cosa vi ha colpito del Vangelo di oggi, come avete incontrato questo Vangelo, altrimenti non entra, amici, non entra. Uno dovrebbe mettersi lì col testo in mano. Certo, a messa viene letto, ascoltate molto bene, viene letto bene, ma deve penetrare, dobbiamo meditarlo, dobbiamo mangiarlo. Il Signore Gesù a tutti, se tu lo leggi stando attento anche alle virgole, a tutti diceva: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. No, no, ma è già troppo lunga questa frase. Dobbiamo prenderla parola per parola se vogliamo farla entrare. Se qualcuno vuol venire dietro a me, noi dobbiamo avere questo desiderio di seguire Gesù. Se ci ha catturato, affascinato, quante persone hanno incontrato Gesù durante la sua vita? Solamente alcuni però l'hanno seguito. Maestro, dove abiti? Beh, venite e vedrete. E allora capite, se io ve lo spiego, sì, posso star qui anche un'ora su questo Vangelo, sapete? Ma per te che mi ascolti, ti sei confrontata tu se vuoi seguire Gesù? Se vuoi seguire Gesù, rinneghi se stesso. Noi corriamo via troppo in fretta, su, prenda la sua croce e mi segua. Un momento. Prima devi rinnegare te stesso. Cosa vuol dire rinnegare me stesso? E qui ciascuno di noi deve fare il suo esame di coscienza. Devo rinunciare a tutto ciò che è sbagliato dentro di me, sostanzialmente a tutto ciò che non è amore. Certo, capite che per fare questo dovremmo prendere in mano ciascuno da solo un pezzo di matita, un pezzo di quaderno. Dunque, io mi devo rinnegare in che cosa? Nella mia lingua, per esempio. Mi devo rinnegare nella mia avarizia. Mi devo rinnegare nella mia voglia di comperare. Abbiamo le nostre case piene. Dobbiamo continuamente mettere lì armadi, cassettoni. Io vi auguro di fare trasloco qualche volta. Io quando l'ho fatto mi sono accorto che ho buttato via dei libri ancora nel cellophane. Ho detto, bravo Ambrogio, hai avuto il desiderio di possedere più lungo che non la tua intelligenza. Ero in spiaggia e passano quelli lì a vendere tutti, no? Dai palloni ai vestiti agli orologi. E una mia vicina di tavola in pensione dice, Don, le piace questo vestitino che vorrei comprare? Costa solo 20 euro. Cosa ne dice? E io vigliaccamente le dico, ma ce l'hai bisogno? Ma ce l'hai bisogno? Rinneghi se stesso, amici. Uno dovrebbe prendere in mano. Devo rinnegare al mio amor proprio. Devo rinnegare i miei risentimenti. Devo rinnegare il mio desiderio. Gliela faccio pagare. Devo rinnegare il mio, ma non sono capito. Devo rinnegare, sta fresco se crede che gli farò ancora un piacere. Amici, amici, dobbiamo prendere in mano il Vangelo. Quando io ho dovuto preparare una persona, più di una, ma ne ho in mente una persona non italiana che veniva qui, non conosceva nulla di Gesù, quasi neanche il segno di croce. Io, per istruirla nella fede cristiana, non ho preso un catechismo, ho preso il Vangelo e l'ho letto così. Io credo che noi abbiamo bisogno di riprendere in mano il Vangelo, ma voi, amici, perché ancora una volta avevo fatto io la predica, ma questo è un esame di coscienza per me. Ma dovete voi, amici, mettervi lì e dire che vantaggio hai tu, Giovanni, se guadagni il mondo intero, se hai la banca piena dei tuoi dollari, ma perdi o rovini te stesso. Spero proprio di no, ma. Il rapporto coi soldi. Quanta gente, forse noi, no, voi no perché siete qui a messa in un giorno feriale, ma quanta gente non ha tempo di andare in chiesa, anche se sono pensionati, anche se sono... Vabbè. Tutto noi perderemo alla fine della nostra vita, tutto sparirà. Come un gigantesco Covid che non ha guardato in faccia a nessuno, ha portato via giovani, anziani, preti, mamme di famiglia, papà, via. E ho in mente ancora, l'ho già detto ma lo ripeto perché ce l'ho stampato nella mente, quello che mi hanno detto alcune persone delle pompe funebri, mi hanno detto, Don, ma per noi è stato uno stress, a parte le centinaia di interventi che qui in Lombardia hanno dovuto fare, centinaia, ma dice, ma soprattutto andavamo, prendevamo il lenzuolo con dentro la persona e fracchete, dentro nella cassa, chiudi e vai all'inceneritore. Amici, questo è l'uomo? No, non è questo, però certe volte la vita ci riserva questo trattamento. Beati noi se avremo guardato in faccia Gesù prima